Capitolo 30. Il senso di disagio che affliggeva Miss Crawford fu molto alleviato da quella conversazione e se ne tornò verso casa di umore talmente migliorato che avrebbe potuto sfidare forse un'altra settimana da trascorrere nella stessa ridottissima compagnia con lo stesso cattivo tempo se avesse avuto modo di tentare la prova. Ma siccome quella stessa sera ricondusse suo fratello da Londra, animato da tutta, anzi più che da tutta, la sua solita gaiezza, essa non ebbe ulteriori inconvenienti da sopportare. Il fatto che egli ancora rifiutasse di rivelarle il motivo del suo viaggio in città servì solo ad aumentare la sua allegria. Il giorno prima avrebbe potuto trovare la cosa irritante, ma ora le sembrava uno scherzo divertente, che supponeva nascondesse una qualche piacevole sorpresa progettata proprio per lei. E senz'altro il giorno seguente una sorpresa gliela portò. Harry le aveva detto che pensava di andare a fare una capatina dai Bertram e che sarebbe stato di ritorno di lì a 10 minuti. Ma era rimasto assente per più di un'ora e quando la sorella, che lo aveva aspettato per passeggiare con lui in giardino, con molta impazienza gli andò incontro fino alla curva, dove aveva inizio il viale d'ingresso, esclamando con impeto «Caro Harry, dove puoi esserti mai cacciato in tutto questo tempo?» si limitò a rispondere che era rimasto in conversazione con Lady Bertram e con Fanny. «In conversazione? Con loro? Per un'ora e mezza?» fu il commento di Mary. Ma era solo il principio della sorpresa. «Sì, Mary», disse lui prendendola sotto braccio e procedendo lungo il viale con fare assente, come se non sapesse esattamente dove si trovava. «Non ho potuto indurmi ad andarmene prima. Fanny era così bella. Sono assolutamente deciso, Mary. La mia determinazione è assoluta. Ti sbalordisce? No, devi esserti resa conto che sono assolutamente deciso a sposare Fanny Price». Ora la sorpresa era completa. Poiché, a dispetto di quanto a lui, che conosceva il proprio stato d'animo, poteva sembrare evidente, il sospetto che andasse formando un simile progetto non era mai passato per la mente della sorella. E sul viso le si dipinse con tanta evidenza lo sbalordimento che provava che egli si sentì costretto a ripetere quello che aveva appena detto più completamente e più solennemente. Una volta ammessa l'assoluta serietà della decisione di lui, questa non le riuscì sgradita. Anzi, la notizia fu per lei fonte, oltre che di sorpresa, di piacere. Mary era in una condizione di spirito che la portava a rallegrarsi di un rapporto di stretta parentela con la famiglia Bertram e a non essere dispiaciuta nel vedere che il fratello si sposava un pochino al di sotto della sua condizione sociale. «Sì, Mary», disse Harry a mo' di conclusione, «sono bellamente preso. Tu sai con quali oziosi disegni ho dato inizio alla cosa, ma questa è la loro fine. Ho, me ne lusingo, fatto progressi non trascurabili nel suo affetto. In ogni caso, i miei sentimenti sono incrollabilmente fissati. Oh, fortunata ragazza, fortunata ragazza!» esclamò Mary appena poté parlare. «Che matrimonio per lei! Mio caro Harry, questo deve essere il mio primo sentimento, ma il secondo, che ti esprimo con altrettanta sincerità e che approvo la tua scelta con tutta l'anima e che prevedo la tua felicità tanto cordialmente quanto l'auguro e la desidero. Avrai una dolce sposina, tutta gratitudine e devozione, esattamente quello che meriti. Che matrimonio sbalorditivo per lei! Mrs. Norris parla spesso della fortuna di Fanny, cosa dirà adesso? La gioia di tutta la famiglia, veramente, e nella famiglia ha alcuni amici sinceri, come si rallegreranno! Ma dimmi, parlamene, parlamene, quando hai incominciato a pensare seriamente a lei?» Niente sarebbe stato più impossibile del rispondere a quella domanda, benché niente potesse essere più piacevole del sentirsela porre. Come la piacevole infezione si fosse insinuata in lui, non lo sapeva dire, e prima che finisse di esprimere per la terza volta lo stesso concetto, con parole leggermente varianti, sua sorella lo interruppe con un impetuoso «Ah, mio caro Harry, e questo è quanto ti ha spinto a Londra? Questo era l'affare da sbrigare? Hai pensato di consultare l'ammiraglio prima di prendere una decisione definitiva?» Ma egli lo negò recisamente. Conosceva troppo bene lo zio per consultarlo su un progetto matrimoniale. L'ammiraglio detestava il matrimonio e lo considerava imperdonabile nel caso di un giovane che godesse di un'indipendenza economica. «Quando conoscerà Fanny», continuò Harry, «la adorerà È esattamente la donna fatta per spazzare via ogni preconcetto dell'ammiraglio, perché è esattamente il tipo di donna che gli pensa non esista al mondo. È l'ideale, quel miracolo che gli descriverebbe se mai avesse sufficiente delicatezza di linguaggio da dargli corpo. Ma in ogni modo sono assolutamente deciso, deciso al di là di qualsiasi interferenza. Egli non ne saprà niente per ora. No, Mary, ti sbagli completamente, non hai ancora scoperto la natura di quel mio affare. Bene, bene, mi dichiaro soddisfatta. So adesso a chi va riferito e non ho fretta di vedere il resto. Fanny Price, meraviglioso, veramente meraviglioso. Pensare che Mansfield abbia fatto tanto perché tu trovassi il tuo destino a Mansfield. Ma hai assolutamente ragione, non avresti potuto scegliere meglio. Non esiste una migliore fanciulla al mondo e tu non hai bisogno di pensare al denaro. E in quanto alle sue parentele, sono più che buone. I Bertram sono indubbiamente fra le primissime famiglie di questo paese. È il nipote di Sir Thomas Bertram e questo sarà sufficiente per la gente di mondo. Ma continua, continua, dimmi di più. Che progetti hai? Lei conosce già la felicità che l'attende? No. E che cosa aspetti? Poco. Assai poco, all'infuori di un'occasione. Mary, lei non è come le cugine, ma penso che non chiederò invano. Oh no, è impossibile. Anche se tu fossi meno piacente, supponendo che lei non fosse già innamorata di te, del che tuttavia ho pochissimi dubbi, saresti al sicuro. La gentilezza di cuore e la naturale predisposizione alla gratitudine la farebbero immediatamente tutta tua. Sulla mia anima, non penso che si sposerebbe mai senza amore. Intendo dire che se al mondo c'è una giovinetta incapace di essere influenzata dall'ambizione, penso sia lei. Ma chiedile di amarti e non avrà mai il cuore di rifiutarti. Appena il suo ardore le consentì di tacere, egli fu tanto felice di parlare quanto lei di ascoltare. E seguì una conversazione quasi tanto profondamente interessante per lei quanto lo era per lui, benché di fatto egli non avesse da riferire che le sue impressioni personali, nulla su cui insistere se non le attrattive di Fanny, la bellezza del viso e della figura di Fanny, la grazia dei modi di Fanny e la bontà del suo cuore furono l'inesauribile tema. Si spaziò in lungo e in largo sulla gentilezza, la modestia, la dolcezza del suo carattere che fu caldamente lodato. Quella dolcezza che nel giudizio dell'uomo è parte così essenziale del valore di una donna che, benché a volte gli ami dove non la si trova, non può mai crederla assente. Egli aveva buoni motivi per fidarsi della sua indole e per lodarla. Spesso l'aveva vista messa alla prova. Vi era forse un solo membro della famiglia, Edmund eccettuato, che non avesse in un modo o nell'altro continuamente esercitato la sua pazienza, la sua sopportazione? I suoi affetti erano evidentemente forti e profondi. Ah, vederla col fratello! Che cosa poteva provare più deliziosamente che il calore del suo cuore era all'altezza della sua tenera gentilezza? Che cosa poteva essere più incoraggiante per un uomo che aspirava al suo amore? Inoltre la sua intelligenza era indiscutibile, pronta e aperta, e i suoi modi erano lo specchio della sua mente, modesta ed elegante. Né questo era tutto. Harry aveva troppo buon senso per non riconoscere il valore della presenza di buoni principi in una moglie, benché fosse troppo poco abituato alla seria riflessione per saperli chiamare col loro nome. Ma quando parlava del comportamento di lei, così fermo e costante, della sua alta nozione dell'onore, della sua osservanza del decoro, tali da garantire a ogni uomo una completa fiducia nella sua fedeltà e nella sua integrità, egli esprimeva ciò che gli ispirava il saperla in possesso di saldi principi morali e religiosi. Potrei così interamente e assolutamente fidarmi di lei, disse, ed è questo ciò che voglio. E la sorella, credendo come realmente credeva che l'opinione di lui circa Fanny Price non corrispondesse effettivamente ai suoi meriti, ben poteva rallegrarsi di tali prospettive. Quanto più ci penso, esclamò. Tanto più mi convinco che stai facendo la cosa giusta, e anche se non avrei mai pensato a Fanny Price come la ragazza capace di fissare i tuoi sentimenti, ora sono persuasa che è proprio quella che ti farà felice. Il tuo malvagio progetto contro la sua pace si rivela una trovata veramente intelligente. Tutti e due troverete in esso il vostro bene. È stata una cosa malvagia, davvero malvagia da parte mia, e contro una simile creatura. Ma allora non la conoscevo e lei non avrà motivo di deprecare l'ora che a tutta prima mi ha messo in mente quell'idea. La renderò molto felice, Mary, più felice di quanto sia mai stata o abbia mai visto nessuno esserlo. Non la porterò via dal Northamptonshire. Lascerò Everingham e prenderò in affitto una tenuta da queste parti, forse Stanwix Lodge. Darò Everingham in affitto per 7 anni. Sono sicuro di trovare un eccellente inquilino se appena dirò una mezza parola. Potrei farti 3 nomi fin d'ora di 3 persone che accetterebbero le mie condizioni, ringraziandomi. Ah, esclamò Mary, ti stabiliresti nel Northamptonshire? Questo sì che è bello, allora saremo tutti insieme. Appena dette queste parole si riprese e desiderò di non averle pronunciate, ma non aveva motivo di sentirsi confusa, visto che suo fratello la vedeva solamente come la naturale ospite della canonica di Mansfield, e rispose invitandola nel più affettuoso dei modi nella propria casa e reclamando in pieno diritto di essere lui ad ospitarla. «Oh, dovrai regalarci più della metà del tuo tempo», disse. «Non posso ammettere che Mrs. Grant abbia diritto di reclamarti alla stessa stregua mia e di Fanny, poiché tutti e due avremo un diritto su di te. Fanny sarà così veramente tua sorella». Mary non ebbe che da essere grata e dargli generali assicurazioni, ma ora aveva ben fermo il proposito di non essere ospite né del fratello né della sorella per molti mesi ancora. «Dividerai l'anno fra Londra e il Northamptonshire?» «Sì, è giusto. E a Londra, naturalmente, una casa di tua proprietà, non più con l'ammiraglio. Mio caro Harry, che vantaggio l'allontanarti dall'ammiraglio prima che i tuoi modi siano contagiati dai suoi, prima di aver contratte alcune delle sue stupide opinioni, o aver imparato a sedere a pranzo come se la tavola fosse la più grande benedizione della vita. Non ti rendi conto di quanto hai guadagnato, perché il tuo affetto per lui ti ha accecato, ma secondo me lo sposarti così giovane può essere la tua salvezza. Il vederti diventare a poco simile all'ammiraglio, nelle parole o nelle azioni, nell'aspetto o nei gusti, mi avrebbe spezzato il cuore. Bene, bene, su questo non pensiamo allo stesso modo. L'ammiraglio ha le sue pecche, ma è un uomo molto buono ed è stato più che un padre per me. Pochi padri mi avrebbero lasciato così completamente libero di fare a modo mio. Non devi mettergli contro Fanny, desidero che si vogliano bene. Mary si trattenne dal dire quel che sentiva, che non potevano esistere al mondo 2 persone i cui caratteri e i cui modi fossero meno in sintonia. Il tempo glielo avrebbe fatto scoprire, ma non poté tacere questa riflessione sull'ammiraglio. Harry, ho una così alta opinione di Fanny Price che se potessi supporre che la prossima Mrs. Crawford dovessi avere metà dei motivi che la mia povera, maltrattata zia ha avuto di aborrire il nome di Crawford, impedirei il matrimonio se mi fosse possibile. Ma ti conosco. So che una moglie che tu amassi sarebbe la più felice delle donne e che anche quando cessassi di amarla, ella troverebbe sempre in te la buona educazione e la liberalità di un gentiluomo. L'impossibilità di non fare tutto al mondo per rendere Fanny Price felice o di cessare di amare Fanny Price fu naturalmente l'argomento dell'eloquente risposta di Harry. «Oh, se tu l'avessi vista questa mattina, Mary!» Egli continuò, pronta ad accontentare con una tale indicibile dolcezza e pazienza tutte le richieste della stupidità di sua zia. Lavorare con lei e per lei, il colorito graziosamente acceso mentre si chinava sul ricamo, e poi tornare al proprio posto per finire un biglietto che prima era stata intenta a scrivere per rendersi utile a quella stupida donna. E tutto questo con tanta semplice gentilezza, proprio come se fosse una cosa naturale, che lei non dovesse avere un solo momento per sé. I capelli acconciati con armoniosa semplicità, come sempre, e un ricciolo che ricadeva in avanti mentre scriveva e che ogni tanto ricacciava indietro scuotendo il capo. E in mezzo a tutto questo, riuscendo a parlare a intervalli con me, oppure ascoltando, come se le piacesse ascoltare quello che dicevo, «Ah, se tu l'avessi vista così, Mary, non avresti mai accennato alla possibilità che il suo potere sul mio cuore un giorno possa cessare». «Mio carissimo Harry», esclamò Mary, interrompendo di colpo la passeggiata e sorridendogli, «quanto sono contenta di vederti così innamorato! Ne sono deliziata! Ma cosa diranno Mrs. Rushworth e Giulia?» «Non mi importa né di quel che dicono né di quel che sentono. Adesso vedranno qual è il genere di donna che mi può attrarre e legare, che può attrarre un uomo dotato di senso comune. Mi auguro che la scoperta faccia loro bene». e ora vedranno la cugina trattata come avrebbe dovuto esserlo, e spero che in cuor loro si vergogneranno della abominevole negligenza, della mancanza di affetto con cui l'hanno trattata. Certo, saranno irritate, aggiunse dopo un momento di silenzio e in tono più calmo. Mrs. Rushworth sarà molto irritata. Sarà una pillola amara per lei. E naturalmente, come tutte le altre pillole amare, avrà cattivo sapore per 2 minuti e poi verrà inghiottita e dimenticata, poiché non sono tanto vanesio da immaginare i suoi sentimenti più duraturi di quelli delle altre donne, pur essendone stato io l'oggetto. Sì, Mary, la mia Fanny sentirà una differenza, sentirà in verità una differenza di ogni giorno, di ogni ora, nel comportamento di ogni essere che la avvicinerà, e sarà il coronamento della mia felicità il sapere che io ne sono l'artefice, che sono io quello che le dà l'importanza che così giustamente le spetta. Ora è dipendente, impotente, senza amici, trascurata, dimenticata. No, Harry, non dimenticata. Non è dimenticata da tutti, non è senza amici dimenticata. Suo cugino Edmund non la dimentica mai. Edmund, è vero. Penso che egli è, generalmente parlando, gentilmente affettuoso con lei, così pure Sir Thomas, a modo suo, ma nel modo di uno zio ricco, superiore, arbitrario, verboso e barboso. Cosa possono fare Sir Thomas e Edmund messi insieme? Cosa fanno per renderla serena, felice, onorata, rispettata in confronto a quello che farò io?